Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, con questa speranza di Madama Butterfly, quella di rivedere il suo amato presto in Giappone, noi cominciamo Summertime di oggi andando a Torre del Lago, dove Madama Butterfly debutta in un nuovo allestimento con la regia di Takao Okamura, una regia particolarissima e dove continua il 50° festival in onore di Giacomo Puccini. Diamo quindi subito il benvenuto a Franco Moretti, direttore della Fondazione Festival Pucciniano, e al maestro Valerio Galli, che dirige l'orchestra del Festival Puccini. Franco Moretti, quali sono le novità di quest'anno, appunto questo speciale allestimento di Madama Butterfly, ne parlavamo? È un allestimento estremamente suggestivo e diciamo la novità sta nel fatto che questo allestimento viene completamente dal Giappone, scene e costumi curati come soltanto i giapponesi possono fare, ma che Chocho-san ha per la prima volta due case a Torre del Lago Puccini, perché oltre alla Madama Butterfly avremo anche 16, 17 e 19 agosto il dramma in prosa di David Belasco che Puccini vide a Londra nel 1900 e che lo ispirò per musicare questo dramma giapponese. Due visioni completamente diverse, quella del dramma americano che soffriva, tra virgolette, del giapponismo di cui era malato l'Occidente di allora, con questa visione invece estremamente rigorosa, giapponese culturalmente rispetto alla visione orientale giapponese filologica, che appunto mettiamo in scena in collaborazione con NPO di Tokyo. Ma io so che domani sabato è tutto dedicato a Fioriscono i ciliegi, è tutto dedicato al Giappone questa giornata, c'è addirittura una kimono collection e ci si riconosce, cioè si riconoscono le donne sposate dalle ragazze nubili in Giappone dalla lunghezza della manica del kimono, pensate come sono precisi i giapponesi. E poi c'è soprattutto alle 19 un incontro per parlare dello tsunami e della catastrofe nucleare giapponese, quindi è un modo anche di solidarizzare con il popolo giapponese, non è vero? Assolutamente, noi abbiamo ormai da tantissimi anni rapporti continui con le istituzioni culturali giapponesi, portammo ormai più di 15 anni fa una statua del maestro a Nagasaki, proprio vicino alla casa di Glover, la casa che la tradizione attribuisce a Chocho-san, nel 2001 la prima tournée intercontinentale del nostro festival, siamo stati il primo teatro a mettere in scena Butterfly a Nagasaki, l'abbiamo portata più volte in Giappone, in occasione del centenario abbiamo eseguito la versione di Brescia e questa è la seconda produzione giapponese che portiamo qui a Torre del Lago, oltre ad aver portato anche il sequel. Vogliamo essere vicini al Giappone, stanno subendo un momento veramente difficile, sarà con noi Pio De Emilia, uno dei giornalisti corrispondenti dal Giappone più attenti e che ha vissuto di Sky, una persona molto preparata. Esatto, e ci racconterà appunto il dopo tsunami e questa crisi nucleare. I nostri amici hanno portato qui questo allestimento, devo dire, con sacrifici enormi, inenarrabili, sono stati tenaci, forti, come solo i giapponesi sanno esserlo. Abbiamo scoperto che i giapponesi hanno anche un grande cuore, si emozionano, abbiamo vissuto una prova generale intensa. Ecco, perché io leggo che Chocho-san e Suzuki sono due giapponesi. E anche Goro li abbiamo selezionati a Tokyo ormai un anno fa, insieme a NHK, la televisione nazionale giapponese, e Yomiuri Shimbun, che è il primo quotidiano del Giappone, pensate, 12 milioni di copie al giorno vendute. Quindi, come dicevo appunto, sia Chocho-san sia Suzuki sono due giapponesi che interpretano le eroine di questa Madama Butterfly a Torre del Lago. E anche Goro è un tenore giapponese. Quindi insomma è tutto made in Japan. Studiati al millimetro, una suggestione inenarrabile, bellissima, veramente bellissima. Senta Moretti, come sono i racconti appunto di questi tenori, di questi soprani giapponesi rispetto al Giappone del post terremoto? Cosa vi hanno detto? Beh, noi abbiamo molti amici e devo dire che insomma quando si parla della dignità di questo popolo, quando si vedono queste immagini di persone che anche tra le macerie continuano per esempio ad organizzarsi cucinando da soli senza aspettare le cucine da campo, quando abbiamo visto l'indignazione rispetto ad alcuni malfunzionamenti, è un popolo estremamente diverso, direi complementare al nostro. Insieme rappresentiamo un unicum, però insomma siamo veramente molto diversi nel modo di reagire, nel modo di pensare, anche nel modo di interpretare appunto questa storia che ha ancora una contemporaneità estrema, e il nostro festival tra le sue missioni ha proprio quello di verificare, di mettere in scena la contemporaneità del maestro Puccini, che è un grande, lo resterà ancora per sempre, ma è vividissima questa sua musica. Allora, proprio su questo vogliamo un attimo riflettere. Due popoli così diversi, giapponesi ed italiani, che si uniscono grazie a Giacomo Puccini, grazie al genio di Giacomo Puccini, in una grandissima opera. Maestro Valerio Galli, che dirige proprio l'orchestra. Che emozione c'è a dirigere un soprano, un tenore, un mezzo soprano giapponesi in quest'opera che è un capolavoro ovviamente italiano, però ambientato in questo posto che era assolutamente remoto all'epoca di Puccini? Certamente, guardi, noi abbiamo fatto 2 settimane di prove, sono state prove veramente molto interessanti perché c'è stata questa perfetta fusione tra la cultura giapponese e la cultura italiana. Abbiamo lavorato in maniera eccezionale, soprattutto con il regista Takao Kamura, che poi è stato anche un grande basso baritono in Giappone, quindi molto attento anche alle esigenze dei cantanti. E devo dire, queste interpreti giapponesi si sono dedicate anima e corpo veramente alla resa di questo spettacolo. Hanno saputo tirar fuori veramente anche tutti i veri sentimenti italiani, che probabilmente non fanno neanche così tanto parte della cultura giapponese. Ecco, si sono trasformati veramente in grandi italiani. Diciamo questa estrema passionalità della Butterfly, secondo lei, è una passionalità tutta nostrana? Io credo di sì, che sia molto italiana, molto italiana. Qual è l'aria che, a parte quella che abbiamo sentito in apertura, che la emoziona di più, maestro, dopo tanti anni? Ma sinceramente tutto piccolo e Dio, l'ultima aria, quanto di più straziante ci possa essere, l'addio di una madre al proprio figlio, è veramente un'aria disperata. Ricordiamo quando Pinkerton arriva con la sua nuova moglie. Proprio prima del finale, del suicidio di Butterfly, cioè lei incontra il figlio e gli dà l'ultimo saluto. Anche perché sappiamo che appunto Pinkerton, che è il padre, le dice è meglio che cresca con me, con la mia nuova moglie, no? Con la moglie americana, e lei fa questo estremo sacrificio, però poi dopo appunto l'epilogo è abbastanza noto. E lei pensa che allora in questa visione pucciniana c'era questo fatto che una mamma rinunciando al figlio rinuncia alla vita, quindi molto italiana? Io credo di sì, ma proprio anche per la resa musicale, che veramente è Puccini allo stato puro, è proprio il Puccini passionale, sentimentale, secondo me è molto italiano. E invece quando lei dirige questo soprano giapponese, non sente come lo vive un soprano giapponese? No, io sono affascinato per le movenze, per il modo di cantare. Questa signora ha una dizione praticamente perfetta e c'è proprio una grandissima trasformazione dall'inizio dell'atto, in cui diciamo ci sono molto più giapponeserie, c'è una grandissima trasformazione molto drammatica nel corso dell'opera. Allora, noi ricordiamo Madama Butterfly nel nuovo allestimento a Torre del Lago in una giornata particolare, quella di sabato, ma verrà poi replicata anche l'11 e il 18 agosto. E una regia particolarissima di Takao Okamura. Abbiamo sentito Madama Butterfly, è una giapponese, e un'emozione grandissima, sempre quella del Festival Pucciniano a Torre del Lago. Io ringrazio Franco Moretti, Grazie, ringrazio Valerio Galli. Tutti gli ascoltatori e lei in particolare, e se mi permette un brevissimo flash, un ringraziamento anche all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, al dottor Donati che lo dirige, che ci ha dato veramente una grossa mano per riuscire a portare Cho-Cho-San a casa in questo splendido allestimento. E noi assolutamente vogliamo anche dare la nostra solidarietà al popolo giapponese. Grazie. Summertime. E adesso andiamo a Roma, al Fontanone Estate, dove si rappresenta Teresa. È la storia di Teresa Battista, stanca di guerra, dal libro di Jorge Amado. Perché? Perché narra la storia di una vita avventurosa di Teresa, che è una prostituta capace di ridiventare vergine, poi una ballerina di samba, insomma, di tutto e di più. Silvia Siravola interpreta. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti quanti. Quindi un personaggio un po' complesso per un'attrice. Molto complesso, già diciamo è ispirato a un romanzo piuttosto complesso di cui abbiamo deciso di raccontare e di estrapolare i momenti salienti e il cuore delle vicende. Ed è una storia comunque però molto appassionante, perché questa è una donna piena di coraggio, di tenacia, a cui capitano veramente di tutti i colori, ma che combatte contro il suo destino sempre con una grande solarità, con il sorriso sulle labbra. Con coraggio, è veramente un simbolo, un'eroina, e dovrebbe in qualche modo un personaggio che può aiutare anche a pensare come poter affrontare a volte le difficoltà nella vita. Per me è addirittura un personaggio, da bambina viene rapita, venduta, schiava a 13 anni e si trova a convivere con un capitano che le fa subire delle violenze terribili, ma lei in qualche modo risorge sempre, come il popolo brasiliano, perché poi è tutta una storia che è ambientata in Brasile, con quindi le atmosfere magiche brasiliane. È appassionante, insomma, almeno abbiamo... Ecco, ma c'è sempre questo Jorge Amado che ama tantissimo le donne, no? In Donna Flor, addirittura gli dai due mariti, in questa ballerina di samba ne fa un'eroina. E nel vostro spettacolo Teresa si veste di bianco e si prepara all'ultimo incontro, e da lì c'è questo racconto della sua vita. Ma perché, visto che è proprio nel titolo del libro, perché è stanca di guerra? Fatica tanto, fatica nel, addirittura si trova ad affrontare il vaiolo che colpisce la città, e addirittura combatte il vaiolo insieme a tutte le prostitute, perché poi lei passa da un bordello all'altro, si innamora e trova questo grande amore in un uomo che è una meraviglia, a cui lei si dà completamente, ma quest'uomo non potrà stare con lei. E adesso non voglio raccontare troppo, però anche lì, nell'unica speranza della sua vita, c'è comunque sofferenza, e lei quindi in qualche modo alla fine decide di rincontrare questo uomo, poi si vedrà un po' come. Tu però ci hai preparato un piccolo pezzettino dello spettacolo. Tanto sì. Per chi si trova a Roma il sabato 6 agosto e vuole venirti a vedere, ce ne fai ascoltare un brano. Certo, che è proprio il debutto di Teresa da sambista, che però diciamo si capovolge un po' la situazione, non diventa un vero e proprio debutto da sambista, ecco. Oggi è il giorno del debutto, sono molto nervosa. Il poeta José Saraiva non riesce a staccarmi gli occhi di dosso. Ma perché tossisce sempre? Mi sa che è tisico, canterà poco. Guarda che buffa quella coppia, stretti stretti, faccia contro faccia. Lei è un po' grassoccia, però è attraente. Ma perché guarda fissa la porta d'ingresso? Oh mio Dio, chi è quell'energumeno alto quasi 2 metri? Avanza come una furia verso la pista da ballo. Si ferma davanti alla ragazza. È così, brutta puttana, che sei andata a trovare tua madre malata? Pum, pum, pum! Il rumore di quegli schiaffi si sente per tutta la sala, copre addirittura le note dell'orchestrina. Non ce la faccio, non posso resistere. Un uomo che picchia una donna non è un uomo, è un vigliacco. E io, un vigliacco, non lo picchio, io gli sputo in faccia. Ero così allenata fin da bambina a giocare alla guerra con quei monelli che mi si era sviluppata una mira infallibile. Puh! Se sei un uomo, vieni a suonarmele avanti, vieni, vieni. Lui, inferocito, viene avanti verso di me. Gli volevo mollare un calcio nel bel mezzo dei... Beh, insomma, avete capito. Ma lo manco e cado a terra come una pera. Quel bastardo che è abituato a picchiare le donne usa anche il pugno di ferro, mi dà un cazzotto in faccia e mi spacca la bocca. Il poeta Tisico Saraiva allora si getta su quel cafone, ruzzolano a terra insieme. Io mi rialzo, provo a colpirlo ancora. Niente, gli sputo in faccia un'altra volta. Lo sputo era senza dubbio la mia arma migliore, ma questa volta in mezzo alla saliva c'è anche un po' di sangue e un pezzo di dente. Due balordi tirano fuori dei coltelli. A quel punto interviene anche Lulu, qualche altro che stava seduto nei tavolini del caffè. In pochi secondi inizia una rissa come nemmeno nel peggior bar del peggior luogo malfamato di tutta Bahia si poteva vedere. Io tiro calci e capelli con una sveltezza incredibile, schivo i pugni con un'agilità da fare invidia a un leopardo. Maria Vergine! Una donna meglio di questa per litigare ancora non l'avevo vista. Grazie, grazie, bravissima, grazie, grazie a voi. E soprattutto quello che ci piace sempre anche qui, questa caratteristica di Amado, no? Il pettegolezzo, no? Il fatto di guardare le persone, di immaginare quello che c'è dietro le persone, magari il poeta Tisico. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Silvia Siravo, Teresa, ispirato a Teresa Battista Stanca di Guerra di Jorge Amado, scritto da Tony Fornari alla Fontanonestà. Gianicolo, ore 22. Lei adesso mi chiede cosa penso della televisione. Ci vuole molto coraggio per pormi una domanda simile. Beh, lei parlando con me si comprometterà. Io sono un essere orrendo per il mondo intero. Io sono un reprobo. Mi hanno accusato di avere venduto al nemico perfino i piani della linea Maginot. E noi andiamo a Villa Cerimontana Festival Circus, dove proprio questa sera alle 22 Ubaldo Lopresti e Ulisse Benedetti presentano Partitura per un massacro. Si parla di Louis Ferdinand Céline, una delle figure più controverse della letteratura francese, e Ubaldo Lopresti, perché dedicare uno spettacolo a uno scrittore così un po' amato, un po' odiato, accusato di antisemitismo, cinico, nichilista? Io ho letto Céline 20 anni fa, anche di più, e ero rimasto affascinato da questa sua scrittura straordinaria, a mio avviso, sia nello stile, nel linguaggio, in questi ritmi molto anche jazzari, perché lui era ovviamente condizionato dalla primo jazz, soprattutto per Viaggio al termine della notte e Morte a credito. Me ne sono innamorato pazzamente, nonostante chiaramente già allora era uno scrittore che ha avuto dei grossi problemi, è stato molto contestato, amatissimo nei primi due libri, e poi ovviamente dopo che è uscito nel 1937 Bagatelle per un massacro, in un momento sbagliato, perché ovviamente un libro antisemita nel 1937 è stato bandito in Francia per 30 anni. Però io lo trovavo e lo trovo ancora oggi di un'attualità in alcune parti sconvolgente, diciamo. Io avevo già messo sullo spettacolo 20 anni fa con Massimo Venturiello e 4 musicisti jazz, e l'ho voluto riprendere perché anche rileggendomi parte dei testi eccetera ho trovato che oggi più che mai è molto attuale, insomma, perché ha una scrittura molto forte, provocatoria, fastidiosa ovviamente. E poi in un momento in cui andiamo verso i buoni sentimenti, tutto rassicurante, tutto va bene, e invece mi pare che c'è una forte ipocrisia, una mediocrità e un conformismo verso il basso che, insomma, nei suoi scritti lui invece è molto più aggressivo, violento, affonda le mani e il corpo nel male che c'è, purtroppo c'è, e quindi lo trovo veramente forte, interessante. Ecco, ma sì, secondo lei quindi è questa onda che parte da Baudelaire e poi continua? Penso proprio di sì. Ma lui, tra l'altro, la realtà è che lui è stato ovviamente molto contestato per questo antisemitismo, cioè, però lui di fatto non era né di destra né di sinistra, era un anarchico che ce l'aveva un po' con tutti, insomma. Infatti anche i suoi testi, voglio dire, in Germania in quel periodo erano banditi anche in Germania, quindi non è che fosse dalla parte del nazismo come è stato un pochino ventilato. Poi è stato anche, come dire, rivalutato in parte, perché pare che lui abbia ospitato ebrei a casa sua, era un medico che visitava gratis, è stato sulle navi, ha visto veramente il male con i suoi occhi, la sua mente e il cuore, e lo ha rappresentato senza false, appunto, senza ipocrisia, senza... Ecco, lui disse di se stesso: ci si accanisce a volermi considerare un massacratore di ebrei, io sono un preservatore accanito di francesi e ariani e contemporaneamente del resto di ebrei, ho peccato credendo al pacifismo degli hitleriani. Beh, il pacifismo degli hitleriani sembra una contraddizione, ma certo, qui finisce il mio crimine. Ora, io non sono proprio d'accordo, io penso che lui un po' antisemita lo fosse, bisogna sempre tenere la guardia alta, però Nicolas Sarkozy l'ha un po' riabilitato, visto che Nicolas Sarkozy ha delle origini ebraiche e dice: non tutti quelli che leggono Céline sono antisemiti. Ecco. Ed è vero. Infatti quest'anno c'è stata anche una fortissima polemica, quest'inverno noi l'abbiamo fatta dal Colosseo, e durante proprio quella settimana sono usciti articoli dal Le Monde, al Corriere della Sera, al Repubblica, eccetera, perché c'è stata questa forte polemica in Francia, perché appunto molti lo considerano un grandissimo, e io condivido onestamente, e poi invece ovviamente altri, giustamente, per carità, non è che dico di no, anche se io ritengo che lui, voglio dire, ce l'aveva, come ha sempre detto, col potere economico già allora in mano agli ebrei, che era vero, anche di Hollywood, del cinema, era fortemente in mano loro, e lo è ancora, diciamo la verità, non è che ce l'avesse con... No, no, ma io dico una cosa, che purtroppo i nazisti nel loro crimine colpiscono gli ebrei proprio perché comunque erano economicamente forti, dopodiché... dire che oggi l'economia sia in mano agli ebrei mi sembra un po' troppo azzardato. Certo. Io chiuderei parlando della sua genialità, sicuramente il suo nichilismo, e quello che non è stato geniale è stato il suo antisemitismo. Ecco, questo potremmo... Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, onestamente, la parte antisemita non c'è nel mio spettacolo, non c'è, perché non sono d'accordo, tra l'altro, ovviamente, però trovo che moltissime parti sono forti contro le critiche sbagliate sulla pubblicità, c'è un peso sulla pubblicità straordinario, sembra scritto stamattina, voglio dire. Per cui trovo che insomma riscoprire questa genialità di questo personaggio molto controverso, tenendo, come dice lei, la guardia alta, perché certamente su quella parte antisemita non siamo d'accordissimo, bisogna sempre tenere la guardia alta, perché sappiamo che il razzismo è una cosa che si insinua, no? È come una mosca, poi però purtroppo assolutamente. È contagioso. Oggi, venerdì 5 agosto alle ore 22 a Villa Cenimontana Festival Circus, abbiamo sentito questo spettacolo che già in radio ci ha incuriosito, perché è proprio su Ferdinand Céline, e quindi Partitura per un massacro di Ubaldo Lopresti e Ulisse Benedetti, per riscoprire questo personaggio assolutamente controverso della letteratura francese. Grazie. Summertime. E adesso andiamo al Planetario di Roma, dove alle ore 21 stasera e domani c'è un concerto un po' particolare, sì, un concerto per rivedere le stelle, come direbbe Dante, un Cosmic Concert. Ma che cos'è? Lo chiediamo a Vincenzo Vomero, proprio direttore dei Musei Scientifici di Roma Capitale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, un museo, un planetario che si trasforma anche in una sala per concerti. Sicuramente, noi abbiamo un museo, che è questo dell'EUR, che è il Museo della Civiltà Romana, e dentro il Museo della Civiltà Romana noi abbiamo un museo astronomico e un planetario. Io spero che tutti si ricordino il vecchio planetario che c'era a Piazza Esedra, dove tutti di quelli di una certa età ricordano di aver vissuto pomeriggi strepitosi. Bene, è qualche anno che abbiamo al Planetario di Roma rifatto e rimesso in piedi un planetario a tutti gli effetti, per far godere alla gente delle bellezze del cosmo, della volta stellata e di quella che non si vede più. In questo planetario in particolare noi ci divertiamo, dico la parola divertimento apposta, a mettere i nostri visitatori in condizioni di godersi la comunicazione della scienza, di godere della scienza e della conoscenza in tutti i modi, e lo facciamo usando linguaggi, tecnologie diverse, eccetera. Tra queste cose proviamo anche contaminazioni delle più diverse, con l'arte, con tutti i tipi di arte, e in particolare con la musica. Musica sentita live, in diretta, sotto una cupola di 14 metri, con, di sera, quindi con un'aria condizionata bellissima, ci fa pensare che siamo in cima a una montagna, per esempio, e con una volta stellata sopra di noi di 4.500 stelle, cosa che nessun occhio umano in una civiltà come la nostra può oggi vedere, beh, ci riporta veramente all'origine, ci fa godere. E questo le concerto... melodie poi sono di Giovanni Renzo. Sì, questo concerto di Giovanni Renzo è una cosa strepitosa, perché noi facciamo un'operazione mista, nel senso che lui compone queste musiche veramente incredibili. Per chi non lo conoscesse ancora, Giovanni Renzo è proprio sul limite tra jazz e musica classica, fa queste composizioni meravigliose e noi ci mettiamo il valore aggiunto della location, di questa location che noi vi faremo vedere le immagini più strepitose sopra le vostre teste, non solo le stelle e un cielo stellato, ma galassie, nebulose, pianeti, verrà una cosa secondo me di enorme appeal, e il nostro motto è quello di far divertire chi viene. Ovviamente tutte queste nostre manifestazioni sono sempre finalizzate a una comunicazione della scienza. Ecco, ma non è che ci sentiremo tipo Neil Armstrong quando atterrò nel 1969 sulla Luna? Non sarebbe male riuscirci, perché dare una sensazione di immensità non solo con la visione, con le immagini, ma anche con questo sottofondo musicale che diventa non più sottofondo, ma diventa la parte principale della serata, ci porta veramente fuori dal mondo. Quando si riaccendono le luci in sala, la gente esce con gli occhi un po' così e non capisce, perché se siamo bravi riusciamo a portarli in altre dimensioni che poi fanno riaffiorare quelle grandi domande del cosmo: chi siamo, da dove veniamo, ormai sono trite e ritrite, ma sono sempre fondamentali per la gente che il viene, Big soprattutto Bang, in città. La galassia, sicuro, tutto. Tutte queste cose non avverranno solo stasera e domani sera, ma ricordo che noi abbiamo un programma estivo con un cartellone di 2 mesi interi, cioè per 2 mesi interi il Planetario e Museo Astronomico aprono di sera, tutte le sere, primo spettacolo alle 9, secondo spettacolo alle 10:30, con una quantità veramente incredibile. Cioè abbiamo 64 serate tematiche, ognuna caratterizzata in un certo modo. Ve ne dico solo alcune per dire: noi chiuderemo la manifestazione il 31 agosto con un altro concerto, che però questa volta è interconnesso strettamente con i cieli del sud, quindi abbiamo chiamato, per darvi un'idea, Sandy Mueller, che è una cantante brasiliana, e mentre noi racconteremo i cieli del sud e tutti gli spettacoli celesti del sud, Sandy Mueller ci farà il suo concerto strepitoso di musiche del Sud America. Ma avremo incontri con astronomi, avremo conferenze. Quando dico conferenze, spettacoli, parlo sempre di cose estremamente leggere. Non si viene al Planetario, al Museo Astronomico per studiare, si viene da noi come si va a un concerto, come si va a teatro, come si va in un posto dove ci si diverte, sperando che poi la gente possa anche ritornare. Allora, ringraziamo Vincenzo Vomero, ricordiamo che al Planetario di Roma l'indirizzo esatto qual è? E all'Eur e Piazza Agnelli è una grandissima piazza dove c'è il Museo della Civiltà Romana, e noi siamo in quella piazza. Allora, stasera e domani abbiamo sentito questo Cosmic Concert, ma per tutto quanto il mese di agosto alle ore 21 si può visitare il Planetario, dove la scienza incontra l'arte. Arrivederci a tutti. Che anno il 1962, no, senza rimpianti, genere gretemiene, ma accadono cose epocali. A gennaio Papa Giovanni XXIII scomunica Fidel Castro. Svolta storica al congresso della Democrazia Cristiana, Aldo Moro convince il partito ad avviarsi verso il centro-sinistra. A Tel Aviv viene giustiziato Adolf Eichmann, responsabile della soluzione finale degli ebrei. Francia, Fronte Nazionale di Liberazione Algerino, firmano l'accordo definitivo per l'indipendenza dell'Algeria. Oh, finalmente! In Inghilterra esce il primo 45 giri dei Beatles, Love Me Do! In Italia, In Italia nasce Diabolik. Nasce Diabolik nel 1962, ma c'è anche un caso che sconvolge l'opinione pubblica italiana e mondiale, quello di Mattei. Mattei, Petrolio e Fango è uno spettacolo con Giorgio Felicetti, scritto appunto da Giorgio Felicetti, che parla di uno dei grandi gialli della politica italiana, il presidente dell'ENI, che vede la morte su un aereo e non si capisce bene che cosa sia successo. Non è così, Felicetti? Sì, lo spettacolo prende nota proprio da quel giorno, parte da quel 27 ottobre del 62, quando una misteriosa stella di fuoco cade nel cielo di Bascapè, vicino Milano, e da lì, partendo a ritroso, cavalchiamo come un lungo flashback tutta l'epopea di Mattei, mettendo in risalto naturalmente la figura umana, quella di un ragazzino che parte da un piccolo paese delle Marche, arriva a Milano, fonda una piccola industria chimica, diventa partigiano, dopo la guerra salva l'Agif da una chiusura e fonda l'Ente Nazionale Idrocarburi nel 1953, l'ENI, dotando l'Italia finalmente di una vera politica energetica nazionale. Voi sarete oggi alle 21.30 ad Ancona nella Mole Vanvitelliana, è l'ultimo spettacolo, poi riprendete a settembre, uno spettacolo fatto di testimonianze, di libri, di foto, di documentari, di interviste a chi ha conosciuto Mattei. Allora lei, se possiamo parlare di teatro civile, visto che il teatro civile ha questa, è la voce della nostra coscienza, che idea si è fatta? Chi ha ucciso Mattei? Beh, questa è una domanda difficile a cui vorrei rispondere. Da 100.000 dollari? No, noi quello che cerchiamo di fare, dico noi perché lo spettacolo è scritto a quattro mani da me e da Francesco Nicolini, partendo proprio dagli atti prodotti dal Tribunale di Pavia dopo la riapertura del processo sull'assassino di Enrico Mattei, ecco, partendo da quegli atti cerchiamo di gettare una luce nuova su questa vicenda. C'è all'interno dello spettacolo un'intervista inedita ad un personaggio molto vicino ad Enrico Mattei, quell'Eugenio Cefis che nel bene e nel male è stato un po' l'alter ego di Enrico Mattei. Ci sono, come dire, lo spettatore in questo spettacolo viene un pochino condotto per mano con estrema chiarezza e lucidità verso le zone buie della storia recente italiana. A nostro avviso qualcosa, qualche squarcio di verità viene fatta balenare, insomma. Allora, sentiamo un altro brano del suo spettacolo. Sei nel centro del mirino, Mattei Enrico. Intanto un'altra micidiale arma viene puntata su Mattei. Il Corriere della Sera spara quattro articoli a tutta pagina firmati Indro Montanelli. Accuse pesantissime, costi gonfiati, monopolio del mercato, governo occulto della politica italiana, montagne di debiti, infine l'accusa più grave. Enrico I compra petrolio sovietico. In piena guerra fredda questo marchigiano si permette di aprire all'Unione Sovietica che usa petrolio per destabilizzazione occidente. Ma non capisco perché americani ed inglesi possono andare in Russia e in Cina e noi italiani no. Soprattutto poi se il petrolio sovietico lo pago 30% in meno di quello americano e medio orientale. In più non caccio una lira, ma scambio merci, scusa, italiano sì, ma fesso no. È un affare colossale per l'Italia, è un boom! Ecco, qui già si comincia un pochino a capire. Perché dedicare dopo tanti anni uno spettacolo a questo che è stata una delle figure poi più illustri? Come al solito le figure illustri in Italia fanno una brutta fine alle volte, purtroppo. Ai noi. Ma guardi, l'attualità del personaggio Mattei è sconvolgente. Io me ne sono accorto studiandolo e appassionandomi a questa figura. Sono due anni che ricerchiamo, perché poi lo spettacolo ha debuttato lo scorso anno, adesso nella versione definitiva sta girando nei teatri italiani. Pensiamo all'attualità di Enrico Mattei, pensiamo soltanto a quello che sta accadendo ad esempio nel sud del Mediterraneo per la cosiddetta primavera araba. Era una storia che Mattei aveva già prefigurato negli anni 50, o al dibattito sull'energia, sul nucleare o al cosiddetto scontro tra giustizia e potere, ecco. Sono tutti temi all'interno dello spettacolo che all'interno della figura umana Mattei preesistevano già. Io credo che l'avventura umana di Mattei abbia segnato in qualche modo, in maniera radicale, perlomeno due volte la storia recente italiana. Dapprima con la sua ascesa, quando ha dotato finalmente l'Italia di un vero progetto energetico, rendendo l'Italia una delle potenze mondiali industriali. Poi con la sua caduta, la sua scomparsa, cioè, come dire, le lancette della storia italiana vengono portate all'indietro, l'Italia torna ad essere un paese dipendente dalle altre nazioni per quanto riguarda la politica energetica. Le conseguenze naturalmente le stiamo pagando ancora oggi. Le stiamo pagando ancora oggi e noi sappiamo però che gli italiani sono un popolo strano, perché poi quando si vota per il nucleare dicono di no, anche se siamo dipendenti, magari siamo anche un po' particolari in questo. Allora, venerdì 5 agosto, ore 21:30, Ancona, Mole, Van Vitelliana, abbiamo sentito Mattei, Petrolio e Fango, una storia tutta italiana, dice Giorgio Felicetti, che sarà sul palco con questo spettacolo per far luce su quello che avvenne al presidente dell'ENI. Grazie. Prego. Non lo sapremo mai chi l'ha ucciso e quale fu il motivo. Mai. Quel che è certo è che la sera che è morto Mattei, in tanti hanno brindato a champagne. Pardon. Spumante italiano era. Così, un'ultima palata di terra venne a cadere sul tumulo della verità. Summertime. E adesso noi andiamo in uno dei posti più belli del mondo, non per essere retorici, ma questo è Ravello, allo speciale Ravello Festival, perché ai giardini di Villa Rufolo, proprio stasera alle 21:45, c'è un incontro particolare. Scrittori e musicisti presentano i propri inediti e a fare un po' da direttore d'orchestra è uno degli scrittori italiani contemporanei che pungolano di più la nostra coscienza, Antonio Scurati. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora, che cosa succede ai giardini Villa Rufolo? Ah, dunque, succede questo, è una trasferta. Abbiamo trasferito a Ravello, in questo che lei giustamente ha definito uno dei luoghi più belli del mondo, un'esperienza che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni a Milano. A Milano, dove io vivo assieme ad altri, un gruppo di altri amici scrittori, da 5 anni facciamo questa rassegna che si chiama Officina Italia, che appunto si è segnalata nel panorama nazionale per questa peculiarità, cioè noi abbiamo invitato di anno in anno quelli che ci sembravano alcuni tra gli scrittori più significativi ad aprire la propria officina letteraria al pubblico, vale a dire che ogni sera ci sono anche numerosi scrittori, 4-5 di generazioni diverse, che leggono inediti ma che non sono scritti ad occasione, cioè leggono work in progress, dicono io sto scrivendo questo in questo momento, non so quando finirò questo libro, se lo finirò, quando uscirà, questo è il mio lavoro del momento. Ed è stata una rassegna fortunata in questi anni che ha molto sedotto il pubblico, abbiamo deciso di trasferirla a Ravello in una versione estiva e quindi faremo una serata di Officina Italia in Villa Rufolo a Ravello nella cornice del Ravello Festival. E io leggo che ci saranno Giancarlo De Cataldo, Filippo Del Corno, Diego De Silva, Melania Mazzucco, Edoardo Nesi e poi lei. Insomma, quanto dura questa serata? È una serata impegnativa. No. Allora, è la consegna per chiunque, grandi e piccini, scrittori di immenso successo, esordienti. Questa serata esordienti non ce ne saranno, ma è sempre stata quella di essere breve, cioè uno legge un quarto d'ora, offre questo assaggio del proprio lavoro in corso al pubblico. Quest'anno abbiamo introdotto questa novità, che essendo il Ravello Festival un festival innanzitutto musicale, abbiamo chiesto anche a un compositore di musica classica contemporanea, Filippo Del Corno, di fare la stessa cosa con la sua arte musicale che gli altri fanno con la scrittura letteraria. Ecco, adesso io leggo però che lei, tra le altre cose, ha anche una piccola summer school della scuola Holden, sempre a Ravello. Che cosa fa? Dà, diciamo, delle lezioni su come si scrive, degli input? In che cosa consiste? Ma guardi, è una sessione estiva, un laboratorio, un workshop della scuola Holden e adesso ho appena finito una lezione, fra l'altro, si rivolge a a un pubblico che potrà sorprendere, è composto di aspiranti scrittori in verità solo per un 20-30%, molti di loro sono persone che hanno una passione, un forte interesse per la letteratura da lettori e che non trovano soddisfazione nelle forme tradizionali di insegnamento della letteratura. Io mi sono accostato tardi e con qualche riluttanza ai corsi di scrittura creativa, ma ho poi capito che sono una formidabile sperimentazione di una nuova didattica per la letteratura. Io insegno anche all'università, ma a Bergamo. Adesso insegno allo IULM di Milano da qualche anno, mi sono trasferito anche lì a proposito di trasferta. Le forme tradizionali di trasmissione, di insegnamento della letteratura purtroppo incontrano un limite storico. Allora questa esperienza che è molto diffusa della scrittura creativa, secondo me dovrebbe essere un modo di accostare i potenziali lettori più che gli aspiranti scrittori alla letteratura. Ecco, però lei ci deve fare un piccolo esempio. Se lei parla con delle persone, prendiamo un'opera famosissima, tipo Giulietta e Romeo, che cosa dice che non diceva Agostino Lombardo mentre insegnava alla Sapienza di Roma? Ecco. No, per carità, Agostino Lombardo è inarrivabile, ma certo le faccio un esempio. La contestualizzazione storica, per esempio, di un'opera letteraria che era imprescindibile dal punto di vista di un insegnamento accademico, oggi nel quadro di un insegnamento di scrittura creativa cede il passo, per esempio, a una contestualizzazione di tipo esistenziale a problemi di poetica, cioè si insegna più chi era Shakespeare, diciamo così, come uomo, ammesso che sia mai esistito, e quali problemi creativi si è posto al momento di comporre Giulietta e Romeo, che non l'intero quadro dell'epoca elisabettiana e dei suoi influssi su quella singola opera. O peggio, magari l'immaginazione di Shakespeare per quanto riguarda quest'Italia, no? Questa Verona assolutamente da sogno, poi, no? Trovare riscontri storici sulla Verona di Shakespeare, questo intendo dire lei. Esattamente, ma poi c'è una mossa, secondo me, fondamentale. Noi adesso abbiamo un progetto su Milano, io lo chiamo di welfare culturale, di supplire a dei servizi sociali che la città non può più erogare attraverso proprio l'insegnamento della scrittura creativa come strumento di integrazione, di autorappresentazione e socializzazione. La cosa fondamentale è proprio la motivazione didattica. Se tu coinvolgi il pubblico, diciamo così, l'auditore, il discepolo, l'alunno, attraverso una forma anche residuale finale di protagonismo, lui è molto più motivato ad apprendere. Cioè, se tu gli dici: io ti insegno Shakespeare, perché poi alla fine è un modo per insegnare letterature comparate, ma lo faccio nell'ottica di un tuo coinvolgimento finale, non che tu debba diventare Shakespeare, ma alla fine proverai a fare anche tu quel gesto creativo che ha fatto Shakespeare. Ecco, che hai una motivazione didattica fondamentale, non per diventare Shakespeare, torno a dire, ma per poterlo leggere. Ringraziamo quindi Antonio Scurati, che questa sera a Villa Rufolo, nello speciale Ravello Festival, presenterà scrittori e musicisti che introducono i propri inediti, e ricordiamo anche la Summer School della Scuola Holden, che si svolge proprio a Ravello. Grazie. Grazie a voi. Dal mese di giugno del 44 io non mi sono più mosso da Bussoleno, dove eravamo sfollati. Alla fine del mese i tedeschi iniziarono un minuzioso rastrellamento, casa per casa, alla ricerca di tutti i partigiani e dei loro simpatizzanti. Un'anima buona, una donna della Cascina del Gallo, pensò bene di venire a farci visita, per avvisare che stavano arrivando i cattivi. E i cattivi se ne accorsero e vennero a controllare. Era peggio che per voi, appunti di amore e di lotta in un tempo di guerra. Domenica 7 agosto alle 15 all'Alto Tanaro, Cebano Monregalese, in provincia di Cuneo, spero di non aver sbagliato nessuna pronuncia, con Renzo Sicco, e ricorda la storia dei partigiani ebrei, perché se mi beccavano era peggio che per voi, è una frase di Beppe Saieva, e come ci spiega Renzo Sicco, Franco Cesena, Walter Rossi furono fucilati, Primo Levi finì ad Auschwitz. Buongiorno. Buongiorno, erano tutti esatti gli accenti, quindi bene. Era peggio che per voi, racconta una storia di lotta partigiana e di doppie identità, identità incomode negli anni appunto della guerra di liberazione, l'identità di partigiano e l'identità di ebreo. Sommate erano una garanzia di fucilazione immediata nel momento in cui si veniva fermati. Beppe Saieva racconta nel suo diario una militanza partigiana molto quotidiana, non priva di ogni retorica, priva di grandi atti eroici e invece ricca di moltissime informazioni e anche di pezzi di storia italiana dimenticati come la dichiarazione di guerra al Giappone. E poi ci ricorda soprattutto che i partigiani erano giovani, perché ormai siamo abituati a pensare ai partigiani come dei simpatici nonnini ultra ottantenni, ma si era partigiani a 15, 16, 17 anni e quindi questo è molto importante. Sì, infatti poi tra le altre cose questo è quello che ci rimane, perché noi vediamo questi vecchietti che fanno le dimostrazioni, che ricordano questi tempi e invece loro l'hanno fatto e molti sono morti quando erano giovanissimi. Ecco, di tante storie, no? Abbiamo anche Emanuele Artom che fu ucciso a botte. Lei ha detto: Beppe Saieva racconta con spirito crudo, uno spirito che possiamo poi ritrovare in Primo Levi, se questo uomo, perché lo spirito con cui Primo Levi traccia il suo racconto su Auschwitz è uno spirito molto realistico, senza retorica. Esatto, perché quello è l'unico modo che ci può riportare a capire a 60 anni e più di distanza che cosa sono stati quei giorni. Cioè la durezza di quei giorni sta nel racconto privo di eroismi e fatto di quotidianità. Ad esempio Beppe Saieva insiste moltissimo sul fatto che i principali protagonisti della lotta partigiana furono i pidocchi, e questo ci dà un'idea di che cosa vuol dire passare le giornate nascondendosi, ma anche dovendosi grattare perché non c'è possibilità magari di lavarsi, non ci sono saponi, non ci sono ovviamente tutte le possibilità che oggi una farmacia ci può offrire, no? Ci parla di dissenteria, ci parla di stitichezza, che erano, lui li definisce i morbi dei partigiani, perché ovviamente l'alimentazione di guerra produceva anche questo, e anche lì non c'erano risorse, medicamenti per risolvere queste situazioni. Ecco, può sembrare banale tutto questo, ma ci dà molto di più il senso di che cosa hanno significato quei giorni, che cosa è stato vivere quei giorni. Noi ringraziamo quindi Renzo Sicco, direttore artistico dell'Assemblea Teatro. Ricordiamo l'appuntamento con questa pagina di storia domenica 7 agosto alle ore 15 all'Alto Tanaro, Cebano Monregalese, in provincia di Cuneo, località Madonna del Lago, in occasione del raduno interregionale Partigiani, appunti di amore e di lotta in tempo di guerra. Grazie. Grazie. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. L'appuntamento è per domani mattina alle 9 e per lunedì di nuovo alle ore 14.